che mi dicevi che dovevo essere solo tua. E adesso piango al telefono. E non confondere il mio cuore innamorato con la gelosia. Mi viene voglia di dirtelo, che sei soltanto ridicolo. E se mi prendi le mani stanotte, il tuo dolore che mi tiene stretta a te, chiudo gli occhi e mi abbandono lentamente, eppure ancora fa male. Mi viene voglia di dartele, ma prendo a calci le macchine e diventiamo grandi, non siamo più diamanti. Tipa difficile, do fuoco a tutte le pagine. Ma se mi prendi le mani stanotte, io ho solo voglia di vivere, credere ancora alle favole. Fanculo, già mi manchi, non siamo più diamanti. E poi mi viene la voglia di volare in città, che non sopporto. Sotto tutto il tuo profumo.